9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, cari amici ascoltatori. D'Alema non lo ha detto ancora perché Veltroni si è deciso a non candidarsi. D'Alema, dillo anche tu, vengo anch'io. Niente più posto in Parlamento neanche per D'Alema. Dillo, dillo. Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! Vengo anch'io, non bastavano i soldi che anche lo Stato deve alle imprese. No, c'è qualcuno che ha fatto il conto, il giornale di quello che le regioni devono alle imprese. Sono 40 miliardi, naturalmente le più insolventi Lazio e Campania. 40 miliardi. Intanto però per loro ce n'è sempre. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io! No, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no? Allora, buon inizio di settimana, buon lunedì 15 ottobre, cari ascoltatori. Direi che se vi dovessi indicare l'articolo, innanzitutto un augurio che si chiama Teresa, festeggia oggi. Oggi è Santa Teresa d'Avila, quindi insomma una santa pesante, per così dire, nella storia della Chiesa, tra i dottori della Chiesa. Se dovessi indicarvi oggi l'articolo da cui cominciare, se non avete ancora iniziato a compulsare i giornali, partite a mio giudizio dall'articolo su Corriere della Sera di Francesco Giavazzi e di Alberto Alesina, e vi indico solo le conclusioni e capirete perché io vi chiedo di cominciare la vostra lettura dei giornali di là. Vi leggo l'ultima parte, che dice questo: Stato e amministrazioni locali spendono ogni anno, dati dal 2010 senza contare gli interessi sul debito, in realtà spendono di più, nel 2011 circa 720 miliardi, togliamo i 310 miliardi che vanno in pensione e spesa sociale, ne restano 410, capite? Questo lo aggiungo io. Quando i politici vi dicono che sono allo stremo e devono tagliarvi i servizi sociali, mentono in proporzione di più del 50%, perché questo sanno fare, lo fanno talvolta anche in buona fede, e semplicemente in quel caso è ancora peggio perché sono ignoranti. Riprendo a leggere l'articolo di Giavazzi e Alesina. Appunto, togliamo i 310 miliardi che vanno in pensioni e spesa sociale, ne restano 410. Una riduzione del 20% di queste spese senza alcun taglio alla spesa sociale consentirebbe di risparmiare 80 miliardi e di ridurre la pressione fiscale di 10 punti. Avete capito? Quindi questo per dire è la risposta migliore che io posso dare a chi dice che la mia continua insistenza nell'indicare margini di molti punti di PIL di minor spesa pubblica da tradurre però in minor pressione fiscale sono esagerati, sono persino poco ambiziosi rispetto a quello che si può assolutamente fare, ripeto, senza intaccare la spesa sociale, anzi facendola riconcentrare esattamente su ciò che nel nostro paese invece la spesa sociale non ha toccato, visto che siamo enormemente indietro nella copertura a volte delle fasce più deboli e anche nella promozione dell'ascensore sociale. Ci occuperemo nella trasmissione di oggi di scuola, ma prima di arrivare al punto della trasmissione partiremo cioè da un punto toccato nella legge di stabilità, quello che chiede ai circa 400.000 insegnanti, sommando i 170.000 della scuola media e i 238.000 delle superiori, gli chiede questo scambio di lavoro aggiuntivo per 6 ore in più settimanali in cambio di giorni di ferie in più. E faremo una riflessione sugli altri comparti della scuola che sono toccati dalla legge di stabilità, ma anche perché lo avete visto, iniziato l'anno e ritualmente le piazze italiane sono state occupate dalle proteste, e praticamente come l'avvento delle stagioni, il fatto che gli studenti non facciano alcuna differenza tra ministri e governi in carica, tenteremo di capire se la somma delle proteste di studenti e di insegnanti è fondata o non è infondata, i tagli aggiuntivi eccetera eccetera, cosa pensare della partenza sprint per la gara alla cattedra, visto che è iniziato il maxi concorso della scuola dopo uno stop di 13 anni, e il maxi concorso ha aperto i battenti il 6 ottobre scorso, registrando in pochi giorni più di 50.000 domande, il MIUR si aspetta un numero complessivo di candidature superiori a 200.000, sapete che i sindacati avevano all'inizio detto concorso, prima esauriamo le liste dei precari. Faremo un punto sulla scuola, ma prima consentitemi di leggere ancora qualche testimonianza di voi ascoltatori che lamentano di essere tenuti un po' nell'angoletto, e allora inizio subito leggendo per esempio questa lettera di Antonio Del Bosco. Antonio Del Bosco scrive: i magistrati della Corte Costituzionale hanno affermato che il trattamento economico dei magistrati è assistito da certezza e continuità a garanzia degli stessi e pertanto non può essere soggetto a contributo di solidarietà. La stessa garanzia riservata alla casta corporativa e politica della magistratura, lo dice Antonio Del Bosco, non io, non si vede perché non debba valere per altre categorie di cittadini altrettanto meritevoli di tutela, come ad esempio i pensionati. Alcuni di essi, infatti, pur in presenza di carico familiare e con trattamento economico neppure lontanamente paragonabile a quello dei magistrati e di circa la metà di quello indicato per il prelievo del predetto contributo, quello di solidarietà, dopo 45-50 anni di elevata contribuzione si sono visti decurtare in termini monetari la pensione, oltre che dal mancato adeguamento alla sua svalutazione monetaria, che dura ormai da parecchi anni, con un minimo di ristoro eliminato del tutto per almeno 2 anni, ma con altri metodi aggiuntivi. Quanto sopra con la motivazione di una imprecisata solidarietà. Certamente, a maggior ragione, anche i cittadini pensionati dovrebbero ottenere un trattamento economico garantito da certezza e continuità, non come a detta della Corte Costituzionale a maggioranza dei magistrati, per i magistrati stessi. E questo è una reazione di Antonio Del Bosco. Lo dico perché sono arrivate tantissime mail in merito alla decisione, che non riguardava solo i magistrati ma anche i militari. Una decisione, vi dirò, che è stata scritta in maniera tale dai tecnici apicali della pubblica amministrazione, in maniera tale che fosse poi respinta dalla Corte, perché l'argomento della Corte, cioè il fatto che non si applicava a tutti i dipendenti pubblici, è un argomento purtroppo inoppugnabile, e chi l'ha scritta è Ragioneria, che fin dall'inizio l'ha congegnata così. Questo è il punto. Perdonate se vi faccio notare che bisogna essere un po' più intelligenti del solo coso casta magistrati, pro casta magistrati. Lì c'è una norma che si applicava ad alcuni e non ad altri. Esempio, il contributo di solidarietà, per come era scritto, siccome aveva dimenticato di dire che si applicava anche a chi aveva, a chi superava i tetti di 90.000 e 150.000 euro per contratti aggiuntivi, integrativi, e non solo per monte retributivo ordinario, dimenticandosi di scrivere questo, basta dimenticarselo perché poi sapere che ci sarà un'impugnativa. Questo è il motivo per cui ai tetti, ai contributi di solidarietà, erano sottoposti quelli delle agenzie delle entrate e non quelli di SOGEI, tanto per dirne un'altra. Però, altra lettera, seconda lettera, poi arriviamo a quelli della scuola. Allora, sempre in materia di legge di stabilità, qui ci scrive Enrico Nobilione e ci dice: suppongo la sua attenzione a alcune iniquità dei ventilati provvedimenti previsti dalla prossima legge di stabilità. Mi riferisco in particolare a 3 provvedimenti: assoggettamento di pensione di invalidità, assegni di accompagnamento e assegni di cura all'IRPEF, secondo, modifica le deduzioni per le spese di assistenza, per giunta retroattivo, terzo, passaggio per le spese di assistenza dell'aliquota IVA dal 4 al 10% e poi all'11%. Allora, quanto all'assoggettamento di pensione di invalidità, assegni di accompagnamento e assegni di cura all'IRPEF, questo provvedimento non comporta enormi oneri, visto l'esiguità delle misure di sostegno economico. Di certo, però, è un provvedimento che va nella direzione contraria a quella auspicabile. Potrebbe complicare non di poco la vita delle famiglie con un disabile a carico, in quanto diventerebbe percettore di reddito. Deduzioni e detrazioni sarebbero da calcolare su questo reddito, annullandole completamente i benefici. Possibile mai che bisogna colpire chi ha problemi di questo tipo? E come è noto, lo Stato li delega alle famiglie? Ecco, mi sembra una buona domanda. Seconda osservazione, quello sulle modifiche alle deduzioni per spese di assistenza per giunta retroattive. Le famiglie dei disabili gravi e dei malati sono costrette a spendere anche migliaia di euro al mese per le spese di assistenza. Riescono a rientrare di una frazione dei costi sostenuti solo grazie a deduzioni e detrazioni. E il rientro si traduce in una maggiore possibilità di assistenza, perché le ore in cui la famiglia sceglie di usufruire sono in funzione del reddito disponibile e non della necessità. Mettere nuovi limiti alla deduzione e detrazione per le spese di assistenza significa complicare la vita a chi ha un malato in famiglia, e anche questo mi sembra molto fondato. Poi l'aumento delle aliquote IVA per le spese di assistenza. Scrive Enrico, questo provvedimento è forse il più ripugnante, non per le dirette conseguenze sui costi, ma per la filosofia. Le famiglie sono costrette a pagare per dei servizi che in altri paesi con pressione fiscale più bassa sono assicurati dallo Stato. In sostanza, spendono perché lo Stato si sottrae ai propri compiti, e la reazione dello Stato è di lucrare sulle proprie inadempienze. Si configura, insomma, un conflitto di interesse sulla pelle dei malati. Più lo Stato non assisterà, più ci guadagnerà alzando anche le aliquote. Questa paradossale conclusione di Enrico Lombilione è anche la mia, e perdonatemi se ho scelto questa lettera perché il tema dei malati mi sta molto a cuore. Ma veniamo al punto di oggi, vi presento subito i nostri ospiti. Noi traiamo spunto da ciò che è uscito venerdì e sabato scorso in merito a misure relative alla scuola comprese nel disegno di legge sulla stabilità, in particolare su questo scambio di 6 ore in più alla settimana, passando dall'orario di lavoro settimanale dai 18 alle 24 ore settimanale in cambio di giorni di ferie in più. E queste 6 ore in più a settimana sono relative alla scuola media e alle superiori, per uniformare la prestazione a quella degli insegnanti delle elementari, che già ora lavorano 24 ore, di cui 22 sono frontali in aula e 2 di programmazione. Naturalmente si tratta di un carico maggiore a titolo gratuito, al fine di utilizzare meglio il personale docente interno per le supplenze brevi e per i cosiddetti spezzoni. Cioè, cosa sono gli spezzoni? Sono quelle ore di didattica che sono scoperte dopo aver assegnato i docenti alle classi per le ore previste dai programmi. Allora, qui si tratta di vedere come questo si somma, se si somma, come si somma, come si è capito che si sommi ai tagli previsti di altre decine di migliaia di posti per gli insegnanti, più gli insegnanti di sostegno. C'è chi ha parlato di 29.000 posti in meno, e il segretario nazionale della CGIL Scuola, Mimmo Pantaleo, è già partito proclamando uno sciopero generale, che c'è già stato insieme agli studenti, lo abbiamo visto nelle nostre piazze. Tentiamo da questa notizia di capire insieme ai nostri ospiti che cosa avviene all'interno della scuola italiana a poche settimane dall'inizio dell'orario. E mentre, ve lo ricordavo, è partito il maxi concorso dopo 15 anni di mancati bandi per l'assegnazione. In questo caso saranno 11.500 più o meno cattedre e 200.000 quelli che si metteranno in fila per partecipare a questo concorso. I nostri ospiti sono Massimo Di Menna, che è segretario della UIL Scuola. Buongiorno Di Menna. Buongiorno. Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L, che cura, andate sul sito dell'associazione 3L, che cura un rapporto tra i più completi, secondo me corretti ed equilibrati, intorno a tutti i gap numerici e quantitativi del nostro sistema della formazione, dalla scuola fino all'università. Buongiorno ad Attilio Oliva. Buongiorno. E abbiamo con noi anche Marcella Matelli. Buongiorno. Buongiorno, dottor Giannino. Allora, cominciamo da Di Menna. Ci aiuta a capire qual è la vostra opinione su questo scambio di orari? Primo, secondo, quello che avete capito voi sui tagli, legge di stabilità per gli insegnanti? Prima cosa, è molto grave che non sappiamo questa mattina ancora il testo del decreto di stabilità, non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale. Questo ha creato, in base alle notizie che sono uscite dalla stampa, solo in questi giorni numerosissime proteste. Comunque stiamo alla bozza di testo che anche io ho avuto occasione di leggere. Non è nessuno scambio, si tratta semplicemente di mettere in un decreto legge A, che viene abrogata una parte del contratto di lavoro che prevede retribuzione ed orario di lavoro, B, che vengono aumentate le ore non di lavoro, di insegnamento in classe da 18 a 24 per tutti gli insegnanti, che queste ore non sono retribuite, di che saranno utilizzate per fare le supplenze o per coprire quelle ore, come lei correttamente diceva, cosiddette spezzoni, che sono rimaste residue. Le ragioni sono davvero incomprensibili, non c'è nessun paese europeo che ha questo quadro orario di ore di insegnamento. Noi siamo già nella media, qualche volta al di sotto della media europea. Se passasse questa legge, che dovrebbe essere approvata dal Parlamento, saremmo l'unico paese d'Europa a avere 24 ore di insegnamento. Per quanto riguarda le ferie, qui siamo veramente ad una cosa particolarmente originale, cioè si stabilisce che per legge aumentano le ferie solamente degli insegnanti di 15 giorni. Allora, vediamola tutta, è semplicemente una norma scritta dal Ministero dell'Economia per fare quattro conti e risparmiare senza nessuna considerazione della qualità della didattica. Se si vuole affrontare il problema di una maggiore produttività, di una maggiore attività legata all'insegnamento, allora si deve affrontare seriamente il numero delle ore aggiuntive, la retribuzione di queste ore e, perché no, anche le attività che possono essere fatte durante le ore in cui sono sospese le lezioni, ma sono di altro tipo. Non si può dire state a casa quando sono sospese le lezioni e tutto questo vi carica di ore di insegnamento. Ci sono una cosa incomprensibile, credo che sia frutto di un impazzimento totale se fosse una cosa di questo genere, presumo che non si farà. Quindi ha ragione dal punto di vista anche della UIL chi protesta, chi sciopera. Come mai sono i tecnici del Tesoro, ha detto anche lei che sono quelli del Tesoro, perché la ragioneria di Stato a intervenire in questione come il monte ore di insegnamento? Questo è uno dei problemi che esistono, se andrebbe chiesto al ministro Profumo, al ministro dell'istruzione. Purtroppo non è una novità di questo governo, è sempre ormai da molti anni stato così, che la spesa per l'istruzione in Italia, che tra l'altro il rapporto alla spesa pubblica, lei dottor Giannino ha perfettamente ragione, c'è un eccesso di spesa pubblica in Italia, ma c'è un eccesso di spesa pubblica assolutamente inutile e improduttiva. La parte della spesa pubblica che si spende per la scuola è la più bassa, siamo al 9, poco più del 9% di fronte al 10% della media dei paesi europei. Certo, non è solo un problema di spesa, però viene considerata solo una modalità. Quando si devono fare dei tagli alla spesa pubblica, si fa il calcolo quanti supplenti in meno si devono retribuire, quanti insegnanti precari in meno si debbono retribuire. A fronte di questo non possono più fare i tagli degli organici, che ormai sono stati fatti per 3 anni, e si ha questa grande pensata di aumentare obbligatoriamente il numero di ore di insegnamento, quindi un aumento obbligatorio senza retribuzione. Anche oggi già si fa, alcuni insegnanti già svolgono ore oltre 18 ore volontariamente, ma sono retribuite. Allora, Marcella Mantelli è qui in qualità di insegnante, per così dire. Chiedo anche a lei, da cittadina, oltre che da insegnante, quindi all'interno del comparto, questa misura nel disegno di legge di stabilità, non ne abbiamo il testo, ma abbiamo capito come dovrebbe funzionare, che impressione fa vista dal di dentro? Ma vista dall'interno, a parte che concordo con Massimo Di Menna, che conosco da tempi lontanissimi e che stimo profondamente, concordo con lui con l'analisi che ha fatto, ma vista dall'interno è una misura che assolutamente penalizza la qualità dell'offerta formativa, ma soprattutto penalizza i ragazzi, intendo dire. Legittimo chiedere un impegno maggiore ai docenti di scuola media e scuola superiore. Si ha l'impressione, no, da più parti, che 18 ore di cattedre siano risibili, però risibile al contempo è la retribuzione dei docenti di scuola media e scuola superiore. Faccio un esempio semplicissimo, tanto per fare i numeri come lei ama, dottor Giannino. Un docente di scuola media e scuola superiore percepisce di media all'inizio del suo percorso 1.300 euro mensili. Consideri che si è laureato, in genere si è specializzato, ha sostenuto dei concorsi e dei concorsi abilitanti. Ebbene, io mi chiedo se questa è la retribuzione con cui si valuta la professionalità di un docente e l'offerta formativa che deve dare un docente. Altresì bisogna considerare tutto il sommerso che viene fatto da un docente, oltre le 18 ore di cattedra. Sono 18 ore di cattedra, un'ora di ricevimento settimanale sono 19, benissimo portarle a 24, perché queste 24 ore non siano di insegnamento frontale, anche perché è impossibile da sostenere un percorso del genere se si vuole lavorare seriamente nella scuola media e di primo e secondo grado. E a fronte di questo, senza retribuzione, con un blocco stipendiale che ormai è al secondo step, non già più al primo, sono state già bloccate le retribuzioni dei dipendenti statali, ma siamo al secondo step. Quindi disponibilità assoluta a lavorare all'interno del comparto scolastico di più, ma con un riconoscimento concreto, vero, di quella che è la professionalità docente. Credo di essere stata abbastanza veloce e spero esauriente. Io un'altra lettera a cui dovevo dar conto è quella di Romeo Costantini. Romeo Costantini ci ha scritto più volte e noi non lo abbiamo calcolato, come si dice in gergo un po' non formale, per segnalarci i problemi del settore farmaceutico, degli infermatori farmaceutici italiani, dello smantellamento della farmaceutica che continua, per così dire. E allora prendo solo una frase dell'ultima lettera che ci ha inviato la redazione qui di Radio 24, è questa: quotidianamente vengono ritirate specialità generiche dal commercio, quotidianamente pazienti assumono forme farmaceutiche di scarsa efficacia convinti del contrario, quotidianamente la superficialità dei media nel trattare l'argomento amplifica gli effetti dannosi di una scellerata manovra che da anni e anni persegue, perché quotidianamente l'industria farmaceutica italiana fa un passo verso la decolonizzazione completa dei propri stabilimenti e della propria forza lavoro, con ripercussioni pesantissime per le casse erariali e i livelli occupazionali. Ricordo che la farmaceutica è tra i paesi avanzati l'unico comparto che ha un meccanismo automatico di compartecipazione obbligatoria ai disavanzi sanitari, e questa maniera di colpirla automaticamente per disavanzi realizzati dalla politica e dalla pubblica amministrazione, oltre agli aggravi fiscali che sono valsi per tutti, ma rendetevi conto che stiamo parlando di aggravi di oltre 12 miliardi per il solo comparto farmaceutico in più rispetto agli altri per la compartecipazione obbligatoria disposta nell'ultimo anno e mezzo per manovre di rientro, stanno portando alla desertificazione che, appunto, per molti di noi che ci lavorano, dice Romeo Costantini, significa certezza di avere buttato tutto il nostro percorso di formazione, la nostra laurea, per colpa di uno Stato che non sa organizzarsi su questo e che quindi chiede ai privati di mettere mano a una cassa che è lo Stato a sprecare. Credo che Romeo Costantini abbia ragione. Stiamo parlando della scuola, spunto queste 6 ore di insegnamento in più per gli insegnanti della scuola media e delle superiori, e sentiamo come la pensa Attilio Oliva, che è presidente dell'associazione 3L. Appunto, sul sito dell'associazione 3L trovate un buon rapporto, 150 pagine su tutti i numeri comparati dei gap da colmare per il nostro sistema formativo. Oliva, allora, che dice di questo intervento? Senta, la ringrazio. Innanzitutto vorrei precisare una cosa, che l'associazione 3L non ha niente a che fare con la Confindustria. No, ragione, io ho detto passato, no, mi scusi. Sì, ecco, appunto, perché è un'associazione che raccoglie esperti italiani e stranieri di grande livello e nessuno opera in Confindustria di questi, prima cosa. La seconda cosa, io sono molto d'accordo a riprendere il discorso da dove lei lo ha iniziato, e cioè dall'articolo di Giavazzi, che fa presente che un 20% di risparmi nel settore pubblico porterebbe a dei risparmi dell'ordine di 80 miliardi sui 400 che restano al di là dei sistemi pensionistici, eccetera. Ora, questo è il vero problema del nostro paese, perché in effetti nel settore pubblico, non essendoci mercato e non essendoci confronti tra un settore e l'altro, tra un paese e l'altro, tra una città e l'altra, cose che non si fanno e che si cominciano a fare da molto poco alla luce degli scandali esplosi, succede che gli amministratori pubblici e in genere la dirigenza pubblica sono poco attenti o del tutto disattenti all'utilizzo del denaro pubblico, diciamo con taglio manageriale, cioè con la capacità di ottenere costi bassi per benefici buoni. Questa motivazione non c'è, quindi la competenza e mancando la motivazione al risparmio e la competenza a gestire, lo spreco di risorse pubbliche è enorme. E Giavazzi lo indica nel 20%, e io le dico, ho fatto l'amministratore pubblico di municipalizzato di aziende IRI, tra l'altro nella mia vita, ed è assolutamente possibile che ci siano risparmi, non diciamo del 20%, ma almeno del 10%, facili da ottenere se si fa attenzione a come si spendono i soldi e al modo di gestire meglio queste aziende che sono tutte fuori mercato, scuola compresa. Allora, se questo è lo spazio enorme di possibili risparmi e quindi di possibile minor tassazione dei cittadini italiani e quindi di miglior utilizzo di risorse pubbliche, metto tra parentesi i furti e i ladroncini che sono un'altra cosa, io parlo di gestione corrente, allora lo spazio è enorme e bisognerebbe avere tutti lo stesso interesse a trovarlo, sindacati, operatori, imprenditori e tutti quanti. Invece ci troviamo di fronte a situazioni come nella scuola, e adesso passo a questo problema, dove A, non si valuta nulla, B, non si premia nessuno, nessuno è motivato col denaro, col guadagno o col merito a fare meglio o a riorganizzare le cose in chiave di ottenere risparmi. Tenga conto che, lo preciso subito, che io non sono a caccia di risparmi per risparmio. Nel settore pubblico della scuola, se c'è qualcosa da fare, data l'arretratezza drammatica del nostro paese in termini di cultura e conoscenze diffuse, che è uno dei paesi più ignoranti d'Europa in termini di titoli di studio, di numero di laureati e quant'altro, la prima cosa che bisognerebbe fare, dopo che si facessero dei risparmi, è utilizzare quei soldi da tenere nell'ambito del settore educativo, non portarseli via, perché noi abbiamo un arretrato gravissimo da colmare. Ma ferma questa premessa, e passo alla scuola e concludo, nel settore scuola l'esempio di cui si sta parlando in base a questo provvedimento, che è quello di dare maggior flessibilità a chi gestisce la scuola, ai presidi, ai provveditori, a chi gestisce la scuola, sta proprio nel rompere la rigidità delle 18 ore contrattuali. Questa storia delle 18 ore contrattuali, in teoria lo straordinario si può fare, ma solo se il lavoratore, l'insegnante è consenziente, e di fatto in generale non sono consenzienti, perché l'educazione che hanno ricevuto li porta a dire: se noi facciamo dello straordinario le diamo dei posti a altri colleghi, sono i supplenti. I supplenti sono quelli che poi diventano precari, che oggi sono centinaia di migliaia di persone che sono a zonzo, esatto, non ben pagate, e fanno una vita precaria, inaccettabile da qualunque punto di vista. Ora, tenga conto che questo è un fenomeno tutto italiano. Non esiste in Europa un numero di precari in un settore come quello scolastico gestiti dalla famosa graduatoria permanente a scorrimento, come si dice, per cui poi entrano e diventano insegnanti a 40-50 anni dopo aver atteso e peregrinato tra una scuola e l'altra guadagnando poco per 10-20 anni. Allora, questo è uno scandalo nazionale. Allora, e nasce esattamente nel momento della supplenza. Se le supplenze scattano ogni volta che un insegnante non è disponibile per ragioni di salute o d'altro, e siccome devono fare tutti 18 ore gli ordinari, se ne chiama uno nuovo a fare una supplenza. Nessuno si immagina che invece, come succede all'estero, glielo garantisco perché mi sono informato bene, quando c'è un insegnante assente c'è un collega ordinario della scuola che si fa quell'ora, quelle due ore, quelle tre ore necessarie e tampona il problema. Allora, no, noi chiamiamo un nuovo chiarissimo, soggetto chiarissimo, che diventa supplente e diventa precario. Contavo sul fatto che a Teleoliva desse questa interpretazione di flessibilità da parte dell'autonomia di chi organizza istituto per istituto la copertura degli spezzoni, per evitare che continui ad alimentarsi questo fenomeno, che è solo italiano, ha perfettamente ragionato l'Oliva, e che è quello per difendere i quali i sindacati all'inizio di fronte al bando del maxi concorso hanno detto: no, un momento, qui abbiamo prima le graduatorie dei precari da esaurire, il concorso fatelo pure, ma se ne parla per anni. Allora, a questa obiezione che cosa risponde Massimo Di Menna della UIL Scuola? Quella riferita all'orario non è assolutamente così, perché il testo non introduce nessun elemento di flessibilità, solamente alta rigidità, si limita ad aumentare l'obbligo di servizio da 18 a 24 senza retribuzione. Le cose che dice il dottor Oliva sarebbero di consentire e definire una modalità di utilizzo degli insegnanti anche per ore aggiuntive attraverso una ulteriore retribuzione per fare un organico funzionale della scuola e un piano dell'offerta formativa che non richieda particolarmente ricorsi ai supplenti. Ma già oggi molte volte è così, sono tanti insegnanti che fanno oltre 18 ore per fare la copertura dei colleghi assenti, o addirittura che sono disponibili a fare per l'intero anno 6 ore aggiuntive. Ma io faccio una domanda banale: è mai possibile che in nessun paese europeo esiste questa attività didattica frontale con la classe? Guardi, a proposito di valutazione e di differenziazione, chi non si impegna nell'insegnamento non avrà nessun danno se questa norma verrà approvata, io penso assolutamente che non sarà approvata, ma non avrà nessun danno perché poco fa e poco continua a fare. Quei tanti insegnanti, penso a insegnanti di varie materie importanti, che danno l'anima per far capire, per far partecipare i loro ragazzi, oltre 18 ore non è proprio possibile, quindi andrebbe a finire una riduzione della qualità. Per quanto riguarda i precari, sono perfettamente d'accordo, c'è un problema di un sistema che ha generato non insegnanti giovani di ruolo, ma aspiranti insegnanti inseriti in graduatorie permanenti. Ma quello che non si dice è che questo concorso non è riservato ai giovani, è riservato sempre ai precari. Possono partecipare, stanno facendo le domande, solamente coloro che sono nelle graduatorie permanenti oppure si sono laureati molti, molti anni fa. Quindi l'esito sarà soltanto una diversità di posizione nella graduatoria. Esatto. Sì, cosa abbiamo proposto noi al ministro Profumo? Una cosa molto più semplice: ci sono dei posti disponibili vacanti nelle regioni del nord di matematica, alcune materie, si faccia un bando di concorso rivolto ai giovani laureati, se sono bravi vincono e a 26 anni diventano di ruolo. E invece questo non si vuol fare, si devono fare gli esami per poter partecipare all'abilitazione, le università debbono in qualche modo lucrare da queste procedure e poi si deve fare un terzo esame per poter accedere ad un concorso dopo che si sta nella graduatoria. Insomma, il principio del concorso è valido, nel modo in cui si sta procedendo mi permetterei di suggerire un'analisi un po' più attenta. Allora, il problema è che su questo dannato, e dico dannato non per mancare di rispetto a nessuno, problema dei precari della scuola, trattino, la mia personalissima, diversa opinione è che andiamo avanti dall'inizio degli anni 70, nella scuola e nell'università, con questi metodi. L'università si cominciò con i provvedimenti del ministro Cristiano Gui a creare formule e fattispecie che non esistevano nell'ordinamento universitario, che promettevano anche in quel caso, strizzavano l'occhio alla formazione progressiva nel tempo di titoli per diventare un giorno titolare di cattedra a pieno diritto. E la politica diceva: se venite da noi anche la prossima volta vedrete che un altro passettino ve lo facciamo fare, e ci siamo inventati in decenni una molteplicità di figure di questo tipo, tutti incamminati in fila verso una cattedra, e la politica ha in questo modo fatto sballare i conti della scuola e dell'università italiana, creando queste aspettative di massa che hanno continuato a congestionare questo settore e creando il fenomeno poi delle attese deluse e delle proteste che poi prevalgono sulla qualità dell'offerta formativa misurata secondo criteri quantitativi comparati, perché questa è la mia banale cosa, che io vorrei un sistema in cui nella scuola come nell'università come nella sanità ci fosse il principio della dirigenza e delle unità formative o dell'offerta che avessero degli obiettivi quantitativi noti ex ante su cui essere poi giudicati ex post, e questo criterio che invece continua a sembrare arabo, pericoloso, perché spezza l'omologazione del titolare di cattedra perché ha vinto un concorso, eccetera eccetera eccetera, io la penso un po' diversamente. E detto questo, vedete come anche questo intervento, deciso da chi non ha titolo per deciderlo, perché io sono d'accordo, la ragioneria può intervenire su le offerte frontali nei diversi cicli dell'istruzione. Qual è il criterio per cui in ragioneria devono pretendere di sapere l'effetto di questo? L'effetto è preservare i saldi. Preservare i saldi configura il miglioramento dell'efficienza, configura il controllo sui saldi che da anni sono fuori controllo, non configura affatto il miglioramento dell'efficienza, punto. Però sono tutte osservazioni che rimbalzano di fronte al fatto che poi oramai si interviene per decreto in maniera che non è lineare, però è insindacabilmente assunta da qualcuno che non ha la minima idea di che cosa poi significa davvero la scuola. Era così col centrodestra e così rimane anche adesso. Meglio di niente piuttosto che aumentare il deficit, dicono loro. Sì, ma perché dobbiamo sempre rassegnarci all'essere meglio di niente e lontani dallo standard buono di qualità? Allora, adesso siamo con le strade e poi torniamo con il professor Adolfo Scotto di Luzio, che insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo. Ecco, eccoci qua con This Day di Jim Morrison in sottofondo. Io ricordo a tutti coloro che sono interessati ancora ai temi della scuola che alle 13.30 in controluce si approfondirà un altro dei temi di questi ultimi interventi sulla scuola, quello della riforma degli organi collegiali, quindi appuntamento con noi sempre su questa rete 13.30 con controluce. E sentiamo invece cosa pensa il professor Adolfo Scotto di Luzio di questo tema, di questa riformulazione delle ore di insegnamento frontale da 18 a 24 per le scuole superiori della scuola media di cui stiamo parlando oggi. Buongiorno professore. Cosa penso? Penso che si affronta la crisi di un'istituzione molto delicata come la scuola in termini puramente burocratici e ordinamentali. Il problema della scuola non sono le 6 ore in più degli insegnanti della scuola media e della scuola superiore, il problema è di un'istituzione che ha perso in questi anni di senso e ha perso soprattutto di legittimità. Questo raddrizzare le gambe alla scuola, questa riportarne a disciplina i conflitti di carattere corporativo serve forse a far quadrare i conti, ma non ci fa uscire fuori da quella abisso che è il processo di delegittimazione della formazione in Italia. E dopo questa affermazione, che cosa concretamente si potrebbe invece fare per evitare questo declino? Innanzitutto bisognerebbe, come dire, aprire una grande discussione pubblica sul senso e sul significato della scuola, su quello che va insegnato a scuola e di conseguenza anche sul ruolo e sull'importanza degli insegnanti, i quali sono stati in questi anni sballottati tra molte ipotesi. Non erano più degli impiegati, si è preteso che fossero dei professionisti, in realtà non si sapeva che cosa far fare a questi professori. La scuola è stata riempita di una quantità di contenuti disparati con l'idea che si potesse, come dire, inseguire questa strisciante secessione degli studenti invogliandoli, fornendogli nuovi insegnamenti, nuovi contenuti che però hanno soltanto, come dire, reso vago il processo formativo e non l'hanno invece, non gli hanno dato una base, non gli hanno dato un orientamento, non gli hanno dato una localizzazione storica rispetto alle trasformazioni del paese e rispetto a quello che la scuola si prefigge di raggiungere. Sentiamo rapidamente Maria da Cesena, lei che opinione ha? Maria c'è? Pronto? Eccoci, sì. Abbassi la radio. Sono un insegnante. Sì. Rapido, ci dica che pensa. Volevo intanto farle notare di come noi corpo docenti ci si sia sentiti umiliati da questa proposta fatta, poiché far fare 6 ore in più senza avere una retribuzione, io credo che ci voglia quasi della faccia tosta. Poi voglio dire che la situazione nelle scuole è sempre più aggravata dal rapporto alunni e insegnanti, nel senso che gli alunni sono sempre più indisciplinati, sempre meno disposti all'attenzione e al confronto con gli insegnanti, E chiaramente questo sottopone il docente a uno stress psicofisico non da poco. Allora, la devo fermare perché tra 8 secondi va via la linea. Devo dire che avevamo anche molte telefonate come quella da Giacomo, che dice invece gli insegnanti dovrebbero lavorare di più. Come sempre lo Stato ci divide, e dividendoci è più forte lui, che prende molto ma dà quasi poco in cambio. A domani.